giochi sul nostro tavolo e alla seconda stagione sta cercando un giocatore come te che registri la frase iniziale in maniera divertente e carina. Se anche tu vuoi smettere di sentire questa voce orrenda all'inizio del podcast, mandaci una tua registrazione a giochi sul nostro tavolo @gmail.com. Grazie. Ciao a tutti, siamo tornati dopo un bel periodo di assenza, un po' di ferie, un po' di tutto, e siamo qua con la nuova puntata di Giochi sul nostro podcast. Stagione 2, yeah! Quindi siamo Fabio, poi Federico. Stefano. Ciao Alan. E basta, siamo in quattro, siamo tutti abbiamo un lag mentale, non è un lag in realtà fisico. No, ma adesso ci sincronizziamo, vai tranquillo. Benissimo, va bene. Ok, allora, puntata di oggi, manca un mesetto circa a Essen, tra l'altro quest'anno la fiera è anche una settimana prima del solito, quindi probabilmente qualcuno ne pagherà, nel senso che come tutti gli anni c'è sempre qualche casa che buca clamorosamente l'uscita per una settimana o due. Voi avete già dato un'occhiata alle uscite annunciate, attese, eccetera, avete già la vostra lista dei desideri? Oh, non schiacciatevi, cioè, ok, sincronismo, cioè, bisogna sincronizzarsi, però, cioè, non tutti assieme, No, io sinceramente devo ancora capire cosa c'è, perché, dopo tutto, appena finito settembre, io sono in Riviera, ancora per me è estate, quindi ancora il mondo del gioco, quello da comprare, ancora non esiste. Ho visto che sta uscendo qualcosina, però mi informerò nei prossimi 10 giorni e l'hype mi verrà i prossimi 10 giorni. Ma io sì, ho guardato qualcosa, devo dire che mi sembra un anno un po' mosciarello, però l'ultima volta che l'ho detto abbiamo comprato poi... Ma sai cos'è che ho la sensazione che all'inizio, qualche mese fa, pensavo che giocano tutti in anticipo, perché c'erano già diversi titoli, cioè tipo verso aprile-maggio si cominciava già a sentire parlare delle uscite, poi improvvisamente si è fermato tutto e ci sono tante case, anche grosse, che non hanno ancora detto nulla sul loro, o al limite hanno cominciato a dire qualcosina adesso senza mettere neanche online le regole. Quindi effettivamente siamo, secondo me, addirittura un pelo in ritardo adesso come standard. Mi sentite adesso? Certo che ti sentiamo. Ah, benissimo, prima non mi sentivate. Puoi dire, no, anche te. No, ma che, no, semplicemente che io stavo sottolineando il fatto che è vero che manca un mese a Essen, però dai, qualcosina da Gen Con è arrivato, quindi è passato un mese dopo Gen Con, parliamo anche di quello che è uscito in America. Non siamo così europocentrici, come cacchio si dice. Sai cos'è? Non è non è la eurocentricità, è soltanto il fatto che da loro vanno altri titoli. Cioè, sì, decisamente. Voglio dire, dai, però un pochettino no. Ci stiamo venendo incontro. Un pochettino, no, sì, ci sono, sì, dei punti, sì. Vai Stefano, volevo secondo me è il contrario, siamo noi che ci stiamo adattando un po' più che loro, quindi dici anche... che stiamo ameritrescizzando? Sì, anche nei gusti dei tedeschi io posso parlare in quello, nel senso che vedendo cosa iniziano a giocare il mio gruppo di giocatori, mi sembra che stanno iniziando ad amare un po' troppo gli zombie, per dire. No, stanno cominciando a fare i cooperativi? Esatto, e quindi no, insomma, il cooperativo no, e quindi così, vabbè, non è predominante come in certi gruppi, però è strano vedere dei tedeschi accettare questo tipo di giochi con comunque i pupazzetti di plastica. Okay. Anche al circolo da me c'è proprio un gruppetto che arriva, quasi un gruppo outsider che si mette lì in tavola, tipo usa tre tavoli quando noi ne usiamo mezzo, e butta su 100 miniature, arrivano questi scatoloni tipo Zombicide, quelle cose lì, e si fanno sta serata a sparare gli zombie, ma sono proprio una nicchia a parte. Ma quello per forza, perché guarda, io ti dico, ho cominciato il periodo nuovo, l'ho cominciato con la Fantasy Flight, quindi l'ho cominciato come American. E poi piano piano sono passato al German, e sono proprio due mondi diversi. Cioè, sì, io credo di essere, beh, non lo sono tuttora, perché adesso gioco quasi solo i German, però c'è stato un periodo in cui mi sentivo uno dei pochi sul ponte, no? Che facevano un po' di qua, un po' di là. Invece effettivamente non, cioè sono proprio dei generi che tendono a autoescludersi per certi aspetti, perché gli utenti diventano diversi. Te guarda, adesso alla GenCon, guardavo l'articolo che aveva scritto Chris delle principali novità, a parte i giochi nostri, cioè Kingsport Festival, Hyperborea e altro, là dominano Star Wars Armada, domina il Dead of Winter, il nuovo della Playdots, bravo, poi c'è Imperial Assault che è il Descent in versione Star Wars, c'è XCOM, cioè domina Fantasy Flight lì. Però è uscito il nuovo di Ignazi Trevicek, come si chiama? Settlers. Ma quello in realtà non quello è lo nuovo. Voglio troppo, quello lo voglio troppo. Quello e anche ce n'è un altro pure che voglio troppo giocare, che è un giochino da 15 euro che è però un deck builder nuovo. Aspetta, tra un po' ti tiro fuori anche il titolo. Va bene, intanto ti dico di Imperial Settler, che è il classico esempio di come un gioco, quando azzecchi la tematica, azzecchi la grafica, cambia completamente tutto. Perché questo gioco qua, Imperial Settler, è già un gioco esistente. No, non è vero. Ho ascoltato l'intervista di Ignazi Trevice che ha detto che sì, è preso dalle meccaniche di 51 State e quell'altro che poi è l'evoluzione, però è stato veramente super semplificato affinché si spiegasse facilmente. Lui faceva l'esempio che si era ritrovato a una demo di 51 State che e si era ritrovato anche lui a essere esasperato dal fatto che faceva fatica a spiegare le regole perché era pieno di cavilli, opzioni, cose che si potevano fare solo in un momento e non sempre. E allora insomma ha maturato l'idea che la meccanica di base poteva essere carina, ma l'aveva sviluppato troppo, forse per cercare di essere troppo adesivo al tema di Neuroshima X, che è quel mondo, il mondo Neuroshima, tematico, tematico post-apocalittico con le razze molto, molto sfasciate, molto sfasate, e che però anche quello è un tema che può piacere, però è anche un tema che può chiudere un casino. Cioè, se lui avesse fatto Imperial Settler all'epoca, lo chiamava così, è vero che era un gioco più difficile, però probabilmente avrebbe venduto molto, molto di più. Adesso se ne è reso conto, ha fatto questa semplificazione, ha fatto due piccioni con una fava, semplifica e gli cambia le grafiche. Adesso lo vogliono tutti. Ma tra l'altro io ho letto il suo libro che ha pubblicato con Kickstarter, Board Games That Tell Stories si chiama. È praticamente una raccolta di articoli del suo blog ed è molto interessante perché fa vedere appunto tutte le fasi, diciamo, di nascita e sviluppo dei suoi vari giochi, e non arriva a parlare di Imperial Settlers, però è proprio bello vedere come si rende conto che qualcosa non funziona in 51st State e quindi pubblica quello che si chiamava Winter qualcosa, non mi ricordo più, e quindi insomma dice questa cosa che ogni gioco quando lo finisci dici questo è il gioco perfetto, l'anno dopo hai cambiato idea. E quindi così, e secondo me dovrebbe aggiungere in futuro l'articolo su Imperial Settlers, perché in realtà tutta la sua produzione è legata, diciamo, da un unico filo, nonostante i giochi sembrino così diversi, in realtà sono tutti un po' simili, un po' collegati, eh. È un po' la sua esperienza di designer. Parlavo male dei cooperativi, però in realtà sono abbastanza intrigato da Samurai Spirit, che è sempre uscito oggi in Con. Sì. Bauza. Antoine Bauza, purtroppo, qualsiasi cosa fa, sono molto molto più interessato rispetto alla norma degli altri autori, perché secondo me c'è uno sbuzzo che altri non hanno. E poi è molto, anche molto eclettico, nel senso che non è Stefan Feld che fa sempre la Victory Point Salad, è più un Rudiger Dorn che fa un po'. Guarda che poi in realtà, se vai a vedere, Feld ha fatto anche cosine, nel senso che ha fatto anche cose tipo, non so, Spikerstadt, che è semplice, ha diversi titoli che ha fatto ultimamente, sono titoli un po' più per tutti, che l'ha fatto perché era il suo nome, cioè un rialto, non è propriamente un giocone di grande diversità o cose del genere. Poi è chiaro che i suoi titoli più conosciuti sono di quelli lì, cioè sono quelli incasinati. Quest'anno tra l'altro ce n'è, c'è Aquasphere suo, Sì. Ma sembra... sì, però ci sarà anche la isla, cioè la isla più semplice, Aquasphere più casinoso. Qui in Germania è già uscito la isla, l'ho visto nei negozi, non l'ha preso nessuno dei miei amici, quindi non saprei dirti. Perché purtroppo la plastica ci ha un po' fatto impressione, quindi... Sì, non dà un'impressione eccezionale. Io l'avevo fatto un'anteprima a luglio di La Isla, effettivamente non sembrava qualcosa di proprio così... Cioè, sembrava una semplificazione, molto semplificato. Cioè, con qualche sua dinamica nota, messa in mezzo, semplificata. Quindi non è uno dei titoli che andrò a cercare, ecco. Attenzione, il re delle scimmie vi annuncia che è uscito Doomtown Reloaded, che è un collectible card game, ma un living card game, però della AEG, quindi non della Fantasy Flight, che sembra avere tutta quella combinazione di jargon words, cioè vocabolario strambo che viene utilizzato solamente per quel gioco, che quindi ti esclude automaticamente se non sei dentro, sei fuori, cioè fa effetto tribalismo. Mm-hmm. In più, tipo, che ne so, chiaramente facendo il parallelo con Netrunner, se rezzo questa carta qua, poi dopo tu con l'icebreaker non riesci a rompermela perché le sabrutine, no? Capito? Quelle parole che le persone ti guardano e dicono: ma che cacchio stai dicendo? È una roba che esclude gli altri e include più o meno come sto guardando io te adesso, certo, facciamo un esempio. Sì, esatto. E questo Doomtown Reloaded ha veramente tutti gli ingredienti per essere la nuova scimmietta che sale su dalla schiena. Tua personalissima, sì, nel senso ma che... sì, mia e di quelli che gli piacciono i giochi di carte, dai. Esatto, no, perché cioè io ho visto l'esistenza di Doomtown Reloaded, ho detto, boh, che cos'è che ha ricaricato? E si è fermato lì, nel senso che non sapevo neanche da dove veniva, fine dell'interesse, c'è scritto sopra, leggo qua sulla scheda di BGG, c'è scritto Family, Better description needed, e non sento nessun bisogno invece di andare. No, perché sono cioè è quella categoria di titoli che cioè o ci entri o ci stai fuori. Sì, sì, esatto. E io ci sto fuori. nel senso che cioè tu lo so che ci sei già dentro, perché tu sei già dentro al Netrunner. E quindi ma quando... rimarrò dentro a quello, però insomma, un po' una partitazza ce la faccio volentieri. Sì, sai cos'è? Che già io già comincio a ragionare. Questi qua sono titoli che hanno la barriera linguistica. Non per me, però sì, per sì, quel, certo. Cioè, nel gruppo dove gioco, cioè già sono gruppi che non è che siamo 500, e allora non è che si può messa a mettere lì a fare i tagli di quelli che l'inglese lo sanno meglio e quelli che lo sanno peggio. No, certo. Oggi tu vieni perché hai passato l'esame e puoi venire a giocare. Esatto. No, cioè, sì. Ecco, qualche anno fa c'avevo un gruppo diverso, eravamo in 3 o 4, tutti ultra anglo, compravamo i giochi in inglese anche se c'erano in italiano, perché consideravamo che le traduzioni in italiano non erano fatte abbastanza bene, cioè roba di quel tipo lì. Adesso il gruppo è un pochino più variegato e quindi cioè quando ci sono la lingua è importante. Detto questo, poi non me ne frega niente del gioco, quindi no, ma poi i giochi di carte da che mondo è mondo sono giochi dove la parte del testo scritto sulla carta è fondamentale, quindi no, insomma yeah. No, ma poi fondamentale è anche la voglia di, cioè questi titoli qua sono secondo me, cioè non vanno per niente bene per i sommelier, nel senso, ormai no, purtroppo no, sono entrato nella categoria, cioè ho fatto il calcolo che in un anno comunque credo di provare almeno 100 titoli diversi. E quindi a questo punto significa che non ce l'hai il tempo di specializzarti. Io quest'anno ho fatto, in questo momento ho solo 2 titoli che ho fatto più di 20 partite. Sì. Che sono Splendor e Under the Caribic. Ci ho giocato a Splendor, bravo. Tipo mi è piaciuto zero. Ma tipo bravo. Zero, Concordo con Federico. Hai visto che... A voi non è piaciuto, quindi. No. Io l'ho detto... No, ma tipo non vedevo l'ora che finisse per andare a fare un'altra roba. Ma allora, io tieni conto che ci sto giocando parecchio con mia moglie, Axaroth l'ha proposta addirittura a sua moglie e ci ha giocato. Sono andato, quando sono andato con mia moglie a accompagnarla fuori dai suoi, e sono andato in missione esplorativa in un gruppo che in Val Camonica, che si chiama Camunia Ludica. Sono andato, gli ho proposto Splendor, gli è piaciuta una cifra e ho detto che lo comprano. Quindi, no, cioè, ma... cioè, boh, io, forse a me mi sfugge qualcosa. Io comincio a Splendor, mi spiegano le regole, sì, e faccio ok, quindi ci vediamo fra mezz'ora che calcolo un attimo quello che devo fare. No, cioè, c'è troppa informazione. Cioè, ti rendi conto che ci ha giocato anche mio figlio di 6 anni a Splendor? Ma, sì, ma c'è troppa informazione completa. Cioè, io ho troppe informazioni per non mettermi lì a fare tutti i conti. Allora, io prendo questo, poi se lui prende quello, opziona quello là, compro di là. Allora, aspetta, opziono quella lì, così prendo il gettone d'oro. Insomma, o lo prendi alla leggera e dici, vabbè, dai, prendo sti tre colori, vediamo come va, vediamo cosa fanno gli altri. Ma poi, scusa, mi aumentano nell'arco della partita. Mi aumentano le informazioni perché vedo che cosa prendono gli altri, e quindi o decido di giocare alla cazzo e non prendo in considerazione quello che hanno preso gli altri, gioco quasi da solo, magari ogni tanto faccio qualche bastardata opzionando roba che prenderebbero gli altri, oppure gioco seriamente e dico benissimo, allora lui può prendere questo qua, quell'altro può prendere questo e lui può prendere questo. Quindi la mia migliore mossa è fare questo colore qui, questo colore qui, questo colore qui, dai, cioè, ci stiamo con la testa, fra parentesi, il tema è zero, cioè potevano fare una strada. Funziona, cioè semplicemente il problema, il discorso è che questo è un gioco che in una serata, basta che ti metti a fare una serata diverse partite e ci entri, c'è poco da fare. Poi è veloce, lo proponi a chiunque, c'è il click clack delle cosille lì. A me è piaciuta una cifra. Comunque, morale, stavo dicendo, cioè, abbiamo aperto un parentesone solo per dire. Aspetta, loro dicono anche la mia, no? Prima che la chiudi. Sì, vai. No, io non capisco, cioè Splendor o altri giochi simili sono giochi di società, ma dov'è l'interazione? Cioè, forse abbiamo già toccato questo argomento. No, guarda che è fortissima l'interazione a Splendor. No, vabbè, un po' di interazione c'è. Cioè, tipo, a me mi piace molto il fatto che se ci sono meno di 4 fish non ne puoi prendere 2. Questo mi piace perché comunque ci puoi ragionare, ma è talmente tanta informazione completa, cioè ho talmente tante variabili a tavola che devo e posso contemplare, che o ci metto mezz'ora per fare un turno, oppure gioco alla cazzo e mi sento frustrato perché dico, cazzo, non sto facendo la mia migliore mossa. Non è né uno né l'altro, nel senso che, cioè, tieni conto che è un gioco, dipende con chi ci stai giocando e come lo giochi. Cioè, è chiaro che se... tutti giocano immobili, guardano tutti il tabellone, lo fissano molto intensamente e sono tutti convinti di fare un partitone. Sì, però, io l'ho giocato così. Però la realtà è il contrario, cioè la realtà è che è un gioco molto, molto attivo, dove ci sono da una parte quelli che, come te, che dicono è deterministico, dall'altra parte ci sono quelli che dicono va solo a culo perché ogni volta che tu giri, cioè uno piglia una carta e esce, potresti avere roba gratis, potresti averci roba gratis. In realtà non è né uno né l'altro, cioè giocandoci si vede come, cioè le prime partite ti metti lì e dici non serve a niente prenotare le carte, butti via soltanto del tempo. No, non è vero. Esatto, non è vero. Nelle altre partite cambi completamente, cioè ci sono tante modalità diverse. Io ti ripeto, ci ho fatto 51 partite ad oggi, che è un buon numero per me tenendo conto che in questo momento ho guardato l'elenco dei giochi giocati, sono in questo momento a quota più o meno 75-80 e non sono convinto di aver disegnati tutti i giochi che ho giocato quest'anno e mi manca ancora Essen. Penso che nel mio gruppo si gioca tantissimo a Splendor e io non sono un grande fan, ma nonostante questo quando giochiamo sempre dicono Stefano fortissimo, io non so perché a volte vinco, ma boh, cioè nel senso faccio la cosa più logica e vabbè, fine del tutto. Cioè, non è che mi sembra di aver impiegato molte meningi per... Comunque, vabbè, ci stiamo allontanando. Sì, vabbè. No, aspetta, facciamo terminare Alan. No, no, sì, è semplicemente che lo trovo un gioco... L'unica interazione che c'è con gli altri è se ti prende la carta che vuoi o ti rovina la combinazione. Cioè, te valuta che lì dentro una delle cose che può succedere più spesso è il blocco. Cioè, tutti hanno circa 10 fish... e tutti ti bloccano, cioè c'è qualcuno che si mette in testa che tu vuoi fare il verde, ti piglia le 4 verdi, basta, te col verde non fai più niente, Sì, ma... sarà che è una tipo interazione molto labile, almeno per me è molto costringere, bloccare l'altro più che in qualche modo o fronteggiarlo o divertirsi realmente. Forse è un gioco l'ho provato, proprio mi ha annoiato, perché alla fine dalla parte, come dice Federico, troppe cose, quindi giochi, almeno secondo il mio punto di vista, giochi a fare una tattica ma poi viene completamente stravolta ogni volta e e così, però no. Io al tavolo c'avevo due giocatori di Magic e un German gamer serio, quindi cioè non è che potevo mettermi lì a dire sì, prendo quello che mi pare, cioè mi cagavano tutto il cazzo perché diceva ma se prendi quella poi dopo perché prendi la cioè ascolta, è come se ti metti a giocare a briscola e ti arriva uno che dice no, devi fare, non devi fare, cioè io dire briscola, cioè gioca un po' come cacchio ti pare, poi quando è finita la partita mi dirai secondo me hai sbagliato questo, hai sbagliato quello, poi metà delle cose che ti dicono sono sbagliate, cioè sta un po' nel divertimento poter pensare di poter dire. È un po' come il famoso metagioco una volta. Bravo. Di ferie. Però non tiriamo fuori quell'argomento lì che tuttora mi fa venire gli incubi quando pensa okay, che dai, parentesi chiusa, dai. Non hai mai capito di cosa volessi parlare. Esatto, tuttora almeno non ho capito di cosa volessi parlare. Vabbè, niente, comunque era solo questa una maxi parentesi per dire che i giochi di carte sono una nicchia, punto. Finita anche quella parentesi lì, altri titoli che aspettate? Io sto guardando, vedo che in questo momento sulla hotness di BGG c'è in testa Lap Dance. Ma che cacchio dici? Aspetta che lo apro, sì, devo credere. Ma invece mi sono soffermato sulla sesta scelta, che è Tanto Cuore Oktoberfest Edition. Ah, sì, Tanto Cuore è un gioco di carte, diciamo, Lap Dance. Sì, mentre preparavamo la puntata, si parlava con Alan e Alan mi diceva: ho letto una lunga conversazione nella quale alla fine tutti concordavano che a noi della grafica non ce ne porta niente. Ecco, infatti Lap Dance, tanto cuore. Ah, tanto però cuore, aspetta, l'ha fatto l'Artipia, eh? Sì, ma Tanto Cuore, Oktoberfest, ha raccolto già $112,000 di pledge. Vabbè, ma Tanto Cuore c'ha tutta una nicchia a sé di amanti degli anime. Nicchia, $100,000 sì. Ha raccolto, va bene. Sì, no, c'hai ragione. Vi ricordate Essen due anni fa? Sì, come no, non le stendiste? Sì, mi ricordo le foto. Ho fatto le foto al gioco, io esattamente, sì. Allora, Lap Dance mi dichiarano Category, Action, Dexterity, Dice, Mature, Adult. Beh, per forza il tema, dai. Sei un pappone, un gestore di un... Infatti, meccaniche, dice rolling, ma soprattutto hand management. Bravo, nel senso che... Sì, gestisci le mani, ok, va bene, diciamola così. Poi vediamo, ecco, vedi c'è Black Fleet che è il secondo gioco della Space Cowboys, che sono quelli di Splendor. Eh beh, no, ma Space Cowboys sicuramente è una bella realtà perché sono insomma i creativi della Francia riuniti. Io capisco Splendor, lo capisco perché perché ti piace, perché viene considerato un bel gioco, non è nelle mie corde. No, piuttosto Five Tribes, che io ci ho giocato l'anno scorso a... Ecco, guarda, domani mi arriva. Non è male, è un po' fine a se stesso, nel senso che le meccaniche proprio non ci azzeccano niente col tema, nel senso che delle meccaniche ben oliate fra di loro, le quali però non simulano, non emulano, non ricordano veramente nulla. Guarda, è un titolo che è stranamente fuori tema, cioè fuori target per la Days of Wonder. Sì, perché è un pochettino più complesso rispetto alla media della Days of Wonder. Perché è facile come meccanica di base, ma poi ci hanno infilato quella meccanica di riutilizzo dei pedoncini, cioè dell'azione speciale dei pedoncini, hanno reso un pochino più, diciamo, hanno reso un po' più pastoso il turno. Però è legato al fatto che la Days of Wonder è stata comprata dall'Asmodee. Sì. E quindi si diceva che sono stati questi Asmodee che hanno insistito perché uscisse in linea produttiva, per dare anche un taglio anche diverso poi al marchio, cioè per poter riposizionare leggermente il marchio. Poi saranno loro che decidono. Mi ha molto intrigato Tragedy Looper. Ho sentito un po' la descrizione nelle interviste a Gen Con. È praticamente questo giochino nel quale tu cominci e si genera subito la storia comincia già che c'è stato un assassinio. È e tu un puoi... deduction game da 2 a 4 no giocatori. Perché comunque tu puoi cambiare il passato per cercare di far sì che questo assassino non avvenga, e hai una serie di azioni. Poi se vuoi adesso ci guardo per bene che cosa c'è da fare, però hai una serie di azioni che puoi fare per evitare, cioè per riuscire a trovare, è un po' un puzzle, per riuscire a trovare quello che è la sequenza giusta per affinché non avvenga l'omicidio. È un gioco del 2011 di un designer giapponese. Sì, sì, sì. Baka Fire. Sì, sì, tra l'altro nelle varie liste qui su Board Game Geek sembra che i giapponesi facciano uscire un sacco di cose, tra l'altro stranissime, che non riesco neanche a collocare, perché sono un po' microgame, un po' no, un po' molto illustrazioni molto anime che non mi piacciono più di tanto. Strano, non so. Ti tieni conto che quello che arriva, cioè quello che arriva qui, cioè magari noi non lo sappiamo cosa diavolo esce là. Quello che arriva, sì, qua, sì, è quello che chi fa le importazioni pensa che vada meglio per noi. Cioè, pensa tu. No, ma perché comunque, cioè, per dire, un Machikoro, che è una specie di, cioè, può essere paragonato a un Catan dei giapponesi, comunque arriva qua quello, magari non arriva un altro titolo che è in Giappone sfonda, però che se lo portano qua non lo vuole nessuno. Cioè, loro chissà chiaramente... come mai. Vabbè, oh, no, perché reputo l'arte del giocare da tavolo una cosa abbastanza indipendente dagli aspetti culturali. Un po' sì, ma non del tutto. Cioè, te valuta, per dirti, per la parte di sì, ti dico che un paio di blog che seguo, uno è indonesiano e giocano esattamente ai giochi German, un altro è brasiliano, ma sono microgruppi. Magari se vai a vedere che cosa vendono sul mercato in Brasile o in Indonesia, non sono questi titoli qua. Cioè, è anche una questione poi culturale dove si indirizza. Guarda la differenza grossa fra la Meritrash e i German. Ma qui stiamo parlando, fra Meritrash e German, di due nazioni ludicamente evolute. Magari in altre realtà, dove i giochi da tavolo sono in una fase diversa, magari prende un altro modo. Cioè, metti un'Italia staccata, non nell'era di internet, magari giocavano ancora Bang. Sì, è vero, vero. Dice, ci sembrava comunque una grossa novità rispetto a Monopoly, sì, e Risico. Bang e Catan diventavano. Esatto, bravo. Invece siamo nel mondo di internet, si va a Essen, ci comincia ad andare una manata di italiani, si è sviluppato un casino su internet. Penso che dal nostro paese, ti dico la verità, così a palmi, credo che sia uno dei più informati dal punto di vista ludico. Dici? Sì, perché girando, guarda che non ne trovo mica così tanti di blog o di siti ludici specializzati negli altri paesi, eh. Cioè ci sono, ma non sono così tanti come da noi. Cioè da noi, bene o male, tutti i giorni, no? Non ti dico, vabbè, a parte il nostro, che siamo i migliori, con molta modestia. No, allora, Fabio, visto che tu sei il proprietario non ne puoi parlare, però posso dire io una cosa, non dico da esterno, ma comunque da qualcuno che l'ha visto prima da esterno e poi da interno. Devo dire che hai settato uno standard, cioè hai settato uno standard di come va portato avanti il fare un blog sui giochi da tavolo, e anche per esempio la quantità di uscite che fai ha un po' settato lo standard anche per gli altri, cioè anche gli altri si sentono in dovere di far uscire con molta frequenza nuovi articoli proprio perché lo fai tu. Sì, ma sai, diciamo che più che altro da noi riusciamo a fare questa cadenza quotidiana perché comunque abbiamo un buon gruppo. Ci sono altri blog o altri siti tipo Gioconomicon, tipo Gioconauta, Balena Ludens o altri che si impostano su una base similare. Se non escono tutti i giorni, escono un giorno sì, un giorno no, per capirci. Si pongono come una logica di comunque tanti articoli. Poi ci sono, oltre a questi, che comunque sono tanti, cioè già per un paese come l'Italia, che dal punto di vista quantitativo non è che abbia tutto sta marea di giocatori, avere già quattro piattaforme grosse è tanto. Ce ne sono poi tantissimi di blog che comunque non fanno la corsa a uscire tutti i giorni, che però si trovano ragazzi, non c'è poco da fare, noi saremo quelli che sparano che fanno magari più massa o più quantità, sì, e tutto quanto, ma il migliore come qualità è Dado Critico, c'è poco da fare. Guarda, stavo per nominare il Dado. Andrea, ti amo. Stavo per nominare il Dado perché lui è un classico esempio, cioè lui, per dire, adesso vai a vedere sul suo, vedo che, non so, è uscito il 30 agosto, il 4 settembre, cioè andando a ritroso il 7 agosto, cioè non è che si massacra a dire devo per forza uscire ogni settimana, devo uscire ogni giorno. Lui fa i suoi, fa le sue cose, viene seguito e va bene così. e ce ne sono tanti, cioè come lui ce ne sono tanti altri, poi ognuno magari c'ha quello che segue di più perché è più a suo tema. Negli altri paesi ne trovo di meno, cioè io ne faccio un po' di data mining, nel senso che vado in giro per internet a guardare un po' cosa esce, cosa parlano, eccetera, e cioè in proporzione secondo me ce ne sono molti da noi. Beh, finita la fase autocelebrativa nazionalistica, andiamo avanti a parlare invece dei titoli che aspettavamo, perché come vediamo, cioè vedo che comunque i titoli ne escono pochi effettivamente, cioè se o è quest'anno che hanno scelto tutti la tattica dell'uscire tardi, o effettivamente quest'anno hanno schifo. E te lo dico io che sono un ottimistone, eh. Cioè io sono convinto. L'ultimo del Gen Con che è uscito che vorrei provare, che sto guardando proprio adesso, che è già disponibile su Amazon.com, è Star Realms. Okay. Che dicono tutti che è l'XXXX più asciutto che si può fare. Della Wizard Games. Esattamente, White Wizard Games. E però su Amazon 20 minuti, XXX in 20 minuti. È come cosa, no? Come si chiama? 8 minuti per un impero, che hanno fatto la versione XXXX. Vabbè, basta. Se la dici così mi tocca comprarlo allora. Esatto. Tra parentesi, io sti giorni sto giocando un casino a Quantum, ci stiamo divertendo un bel po' a spararci e ammazzarci fra di noi. Non è il gioco per quello che ama essere un buon stratega e raggiungere l'obiettivo alla fine, perché è stato un buon stratega, ma è il gioco per chi ama vivere la sensazione del 4X in mezz'ora, tre quarti d'ora, al massimo un'ora. Vabbè, se giochi con 7 cubi. Star Realms te lo sei preso te in carico, ti leggi le regole, fai prima. Anzi, l'hai già ordinato. Va bene, lo sto ordinando. In questo momento, mentre parliamo. Sì, mentre parliamo lo sto ordinando. No, è che ho il dubbio che non me lo spediscano qui a Bologna. Però insomma è l'unico degli ostacoli, poi per il resto poi non c'è problema, anche perché costa veramente una cagata. Ma da dove? Da UK? Da sì. Lo sto aggiungendo alla mia carta. In questo momento sto pagando. Aspetta che devo pagare. Allora no importa adesso dov'è, please note di quanto. Vabbè, ok. Stiamo assistendo a questo spreco di denaro. Ok, va bene. Vabbè, ok. Allora a questo punto aspettiamo che arrivi la recensione. Secondo me facevi prima andare là. Facevi, vabbè. Niente, poi altre cose, vediamo un po'. Posso parlare in diciamo una sorta di breve anteprima di un gioco che uscirà per la What's Your Game. Perché vi spiego, praticamente sono stato a Berlino diciamo quest'estate, e sono stato all'ufficio della What's Your Game, che si è trasferita da un paio d'anni, 2-3 anni a Berlino da Milano. Era un editore italiano che ha deciso di spostarsi in Germania per ovviamente essere più vicino ad un pubblico che pensava di colpire. E il gioco che fanno quest'anno si chiama Zanguo ed me l'hanno fatto provare, e io avevo molta paura perché vi spiego, siccome Vinos e Madeira sono due ottimi giochi, ma come sapete Vinos non è proprio un ottimo gioco, sono tanti giochini che fra di loro si parlano con una meccanica che li fa parlare, ma insomma. Nel senso, immaginati se me l'avessero dovuto spiegare una roba tipo Vinos, mi scoppiava un embolo e morivo. Probabilmente. Invece no, che sia 90 minuti, 12 anni in su, ce l'ho fatta anch'io, ragazzi. Quindi allora vuol dire che è fruibile a grande pubblico. incredibile. E vi dico che è un gioco che mi ha ricordato molto Brugge come sistema. Con le carte, quindi card driven. E vabbè, siamo in Cina, ci sono queste carte, vengono date 6 carte in ogni turno, si fanno 6 turni e finisce il gioco. Vengono date 2 carte per ogni colore, queste carte hanno dei valori prestabiliti in base al colore, e la cosa interessante è che qui diciamo ogni giocatore parte con la stessa con lo stesso set di carte, nel senso che hai gli stessi colori, quindi al contrario di Brugge, dove invece c'è un po' di alia, no? Dove peschi, quindi non sai mai cosa ti capita, così. E la cosa interessante è che con le carte puoi usarle in vari modi, puoi giocarle sulla tua plancetta dove ci sono i 5 regni per avere delle Ah, sì, per quello dici come Bruegger, nel senso esatto, che esatto. Anche in Bruegger potevi usarla in 5-6 modi diversi, vari, le carte, esatto, ok. Esatto. Oh, fra parentesi, è andata, Star Realms verso fine mese ma arriva. Ok, esatto. Va bene. E niente, poi vabbè, ci sono varie meccaniche che si mescolano in modo abbastanza interessante e diciamo, le carte che riesci a mettere sulla tua plancetta le puoi sfruttare quando giochi altre carte per fare delle azioni che triggerano altre azioni. Sembra complicatissimo, lo sai, ma che in realtà... la tua spiegazione in realtà non l'hai reso aperta a grande pubblico, azioni che triggerano altre azioni. Ma in realtà veramente anch'io pensavo hai che hai spiegato tutto, siamo a posto. No, ma in realtà io anch'io pensavo che fosse complicatissimo, ma invece mi ha lasciato proprio la voglia di rigiocarlo. Diciamo perché... che è molto più semplice di come lo stai spiegando tu. Okay, no, vabbè. Ma in realtà sì, sicuramente. No, in più è anche molto più semplice, secondo me, della media dei giochi a cui la Wotsol Game ci ha, diciamo, abituato. Okay. E tra l'altro, parlando anche con Mariano, mi ha detto proprio che vorrebbero veramente, diciamo, avvicinarsi un pochettino. Non vogliono cercare di traduzione, vogliamo vendere di più e i gamer da soli non sono abbastanza. E quindi hanno anche ragione. Sì, ci sta. E quindi diciamo che io sono stato un'ottima cavia, perché come sapete i giochi troppo complessi non li... No, io invece quello che attendo, a parte che ormai è già in vendita e io un po' che sono lì che forse lo prendo, poi alla fine non lo prendo, è la Granja. Che non è la Granja. Al circolo me l'hanno parlato benissimo tutti quanti. Mi hanno detto: ah, Fede, ci devi troppo giocare. Ma perché è un gioco snob. Perché la Spielworks, sì, perché c'è poco da fare. La Spielworks è un editore che si sta conquistando lo stesso, una fama molto similare alla Splatterspellen. Bravo. Perché sono il bello che è che questi qua della Spielworks, cioè, scrivono i manuali a porco, ma proprio a cane. Cioè, no. Come gli viene. Già gli ultimi due titoli che hanno fatto gli hanno riscritto degli utenti di BGG, gli hanno riscritto i manuali. Questo La Granja, ho preso il manuale, mi sono messo a leggerlo, ho avuto una vaga idea di come funziona il gioco e cioè tenendo conto che ne leggo un bel numero di manuali, quando non ci capisco un ciufolo vuol dire che non è aggiornamento. Mi sono anche scaricato l'applicazione sul tablet di Star Realms. Stanotte lo lasciamo che gioca già che si è fatto una versione PMP di Star Realms. No, non lo sapete, ma l'editore di Star Realms ci ha pagato per parlare lui, in questa a me puntata. No, non è arrivata nella copia nel bonifico. StarRealms.com passa la paura, ragazzi. Oppure comincia la paura. Oppure comincia. Comunque, sta Granja, io l'unica cosa che ti so dire è che ci sono dentro delle meccaniche di Glory to Rome, nel senso che usano le carte sempre di quattro lati. Cioè, quando prendi la carta la puoi mettere dal lato destro, dal lato sinistro, in alto, in basso, e spuntano delle icone diverse. Ci hanno messo dentro delle meccaniche di Luna, quello di Feld, che è la meccanica centrale del tempio, di buttare fuori, e ci hanno messo poi una tonnellata di altra roba, tutto quello che gli veniva a mano l'hanno buttato dentro. In sé l'ultimo, con le colonie, ci è piaciuto parecchio, però sono quelle esperienze che equivalgono un po' per fare un esame universitario. Cioè, quando hai finito di giocare questo gioco qua e l'hai capito, è come avessi passato un esame universitario, però alla fine non ti danno la laurea, tutto lì. In compenso, la Queen Games sta facendo l'ennesima furbata su Kickstarter, perché sta facendo Orcs, ha già raccolto $51,000 ed è un gioco con gli orchi, non so se l'avete immaginato. Per il resto non ti so dire esattamente di cosa tratti, salvo che ci sono un sacco di orchetti. Ah, sembra carino con sta fortezza in mezzo. Sarà il classico tower defense alla Panic, come si chiama, Castle Panic. Torni a chiederti, cioè la Queen Games è una delle case che più grosse a Essen, è quella che ha gli stand più grandi, ha capito che Kickstarter è un modo per... Sì, la conosciamo la tua teoria, che è un modo per fare la distribuzione americana senza dover assoldare un distributore americano. Va bene, basta, sono ripetitivo. Va bene. Ma sa che fanno anche crowdfunding per poter avere lo stand a Essen tra un po', lo sai? Sì, immagino. Invece di roba seria, cioè, per adesso stiamo parlando tutte di cose un po' così stiamo parlando, perché stiamo guardando la classifica di BGG, e BGG sono molti americani. però dai, adesso tipo io sono ispirato a Dead of Winter, che non ho sentito parlare bene. È bello Dead of Winter, ci voglio troppo giocare con la meccanica Crossroad. Però è un cooperativo un po' alla Battlestar Galactica, eh? Mamma mia, hai detto una gran, proprio una gran bella cosa. Battlestar Galactica qua, quando ci giocano preferisco stare a casa. Perché? Quando no, mi chiamano Battlestar per giocare a Battlestar Galactica, dico stasera sto a casa e vado a letto presto. Ma va là, dai, è l'unico cooperativo che faccio sempre con molta voglia. Bravo, bravo, allora vieni quando mi chiamano. Sì, ci esatto, giochi vengo te. A sostituire. Ci giochi te, davvero. Ma non sto scherzando, è da Hazard, ci è rimasto quasi male l'ultima volta. Ma ha detto, per favore, vieni a fare il quinto. No. Sono stato a casa a dormire. Va bene, basta. Ok. Ma direi che comunque abbiamo già inciso una cifra. Sì, via, una... Allora, ci diamo una tagliata, proprio una così, quarantina sì. Di, una quarantina di minuti li abbiamo fatti, dopo non li abbiamo... annoiamo sti ragazzi. Non abbiamo parlato veramente del tema della puntata, però vabbè. Che sarebbe? Tutto merito mio, tutto merito mio che vi ho orientato verso Gen Con e vi ho sviato da Essen. In realtà il tema della puntata era parlare di una serie di titoli nuovi. Ne abbiamo nominati un bel numero. Sì. Se vi ricordate, nelle primissime puntate avevamo detto bisogna parlare al massimo di 7-8 titoli a puntata. È un discorso che fai tutte le volte, poi alla fine non ci crede nessuno. Infatti ne avevo nominati 30, come minimo, se non di più. E va bene, niente, quindi abbiamo parlato, l'obiettivo era parlare di titoli nuovi e l'abbiamo fatto, ecco. In realtà non abbiamo parlato molto di Essen, perché secondo me tutta roba che abbiamo nominato, tanta roba Essen non ci arriva neanche. Cioè tutta roba americana... forse no, non prendo neanche lo stand per farla vedere a Essen, così a palmi, Vediamo. No, secondo me invece no, secondo me su questa cosa ti sbagli. Quest'anno vedremo molti americani ad Essen, perché hanno, a partire da Stronghold Games, che è uno che c'è sempre stato ad Essen, come si chiama, Steven Bonacor ha sparso la voce che a Essen si vende un bordello. Adesso tutti gli americani vanno a Essen a vendere, e non so, no, ma fra parentesi penso che la cosa sia successa anche un po' al contrario, perché per esempio quest'anno a Gen Con la prima, il primo anno che ci è andato l'ABA, piccola, è il primo anno che ci è andata ed adesso sono stati molto soddisfatti a sentire le interviste, poi insomma. No, ma parlando di fiera, alla fine forse hanno visto che con Gen Con che sta aumentando i visitatori e la visibilità, dicono a sto punto dobbiamo fare anche noi il passo e andare in Europa per far crescere di più. Dai, può essere, comunque si fa un mercato mondiale invece che solo loro, quindi effettivamente non gli costa niente provarci, ma ecco. Poi comunque magari faremo anche un'altra puntata proprio dedicata a Essen quando siamo lì che stiamo per partire e andare tutti lassù, no? Sì, oppure semplicemente per 5 minuti. Va bene. Adesso diciamo dei titoli e via. Va bene, dai, niente. Salutiamo tutti, ringraziando per la cortese attenzione. Ci vediamo. Però è il suo solito bat canale, la stessa bat ora, come che dicevano il Batman di una volta. Un salutone da Fabio. Federico. Non ciao, ci beccate mai. Ciao. Alla prossima, ciao. Ciao. Se oltre a giocare dalla mattina alla sera volete anche gentilmente donarci una sigla di inizio e una di fine fatte da voi, noi lo apprezzeremo moltissimo. Spedite tutto a giochi sul nostro tavolo @gmail.com. Grazie della gentile attenzione.